sogni di quiete, lo spazio lontano, speranze culla, durante il lavoro, il viaggio di notte, sono stanco furgone, due parole caffè, tre parole caffè. Vado di fretta, lo passo lo spedito, lo sguardo punta alla luna mi appunto al dito. Sangue sul foglio, macchie di bianco sull'orgoglio, nella speranza o l'affattanza di chi ha fumato erba voglio. E tu mi prendi tempi, resi a suoni rullanti, mi dai esempi senza insegnarmi a non perdere istanti. Siamo distanti di secoli, ma gli spazi sono piccoli, se ci mescoli la media ci rende meno ridicoli. Io che tempo ne cedo con parsimonia, conto i minuti da far dormire alla mia testa che sogna. E se ti lascio rima una traccia, è per facilitare il compito alla morte che mi dà la caccia. Quello che verrà, noi gli cederò un metro, e se il passato tornerà non serve che guardo indietro. Ho un cuore di vetro, mi si sbriciola tra le mani, ogni giorno sarà l'ultimo a partire dal domani. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas, du début jusqu'à la fin, pas après pas, sans savoir les raisons ni les pourquoi, pas de questions, la vie ça reste un combat. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas, du début jusqu'à la fin, pas après pas, sans savoir les raisons ni les pourquoi, pas de questions, la vie ça reste un combat. Run, run, do this and do that and run, run. This pace will leave with only one lung. Since birth, get out, be born without a warning. Thrown in the world with a grown-up society forming. You started nice, forced to go through the whirlpool called modern life. Blindsided like you lost your eyes. Preschool, elementary, high school like it's meant to be. Made to believe we actually control our destiny. Oh yo, oh no, there goes the blowhole. Culture through the brain and then through the torso. Heart and thoughts picked out of a carbon box. Society with an eye on me like Cyclops. We're classified, what did they have in mind? To magnify me into a mastermind. Filled with info like bottles with acid signs. We are the product, man, just stand in line. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de questions, la vie, ça reste un combat. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de questions, la vie, ça reste un combat. Catapultato nel sistema fin dai tempi dell'asilo. Successive scuole, formazioni per poi divenire attivo. Parte di sto meccanismo, malgrado lo scetticismo. Spingo perché spinto da un forzato realismo. Monisba in tasca, come dire niente in panza. Quindi a testa bassa, inconsapevoli fin dall'infanzia. Segui la studia, la dopo sgomita in pratica. Leva la vela e vola e poi leva chi voleva fartela. Assimila il più in fretta possibile la dritta. Prima la pagnotta, poi la branda, se resta almeno una fetta. E quella tienitela stretta e stai pur certo che ogni vita la sua retta. Come ogni cosa al suo prezzo, per il lusso, per lo sporco. Che tu sia ratto porco, continua a correre nel mentre, tieniti il culo coperto. L'onore al lavoratore, chiede gocce di sudore. Poi, se sarà fortunato, si godrà la sua pensione. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de questions, la vie, ça reste un combat. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de questions, la vie, ça reste un combat. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de question, la vie, ça reste un combat. Fais vite, le monde court et ne t'attend pas. Du début jusqu'à la fin, pas après pas. Sans savoir les raisons ni les pourquoi. Pas de question, la vie, ça reste un combat.